Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femmes, women, mulieres, fowen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves. Ciao, stasera parleremo di antispecismo e di femminismo antispecista. Cos'è l'antispecismo? È un movimento filosofico e culturale che considera gli esseri viventi come esseri uguali, senza discriminazioni, legati all'appartenenza ad una specie. Come l'antisessismo e l'antirazzismo, l'antispecismo si contrappone alla visione tradizionale antropocentrica che considera l'uomo al centro dell'universo, l'uomo padrone del mondo, che dispone degli esseri, che arbitrariamente considera inferiore a sé semplicemente perché sono diversi da sé. L'antispecismo allora considera gli animali dei soggetti senzienti, capaci di provare sentimenti, affetto, dolore, paura. Ecco, più che considerare o teorizzare questi sentimenti, in realtà possiamo dire che chi è antispecista è semplicemente in grado di vederli, di guardare, di aprire gli occhi di fronte a quello che qualcuno chiama olocausto animale, e non senza motivo. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé? Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloquent l'activité dans la plupart des villes? Trafic perturbé, manifestations massives. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un écho. Mesdames et messieurs, excusez pour la gêne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise, besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir. Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système, insurgés du règne mis en place par une bande de vipères, nous sommes de ceux qui se sont levés. Pour dire non, fils de la liberté, on se doit d'œuvrer. Parce que leur monde, depuis la mort, que tout le vivant est wanted, qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. Perdu dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque fois j'écris, le même qui pourra faire du destin collectif une tragédie. Veuillez nous excuser pour cet incident technique, il semblerait que nous ayons quelques problèmes. Excuse des problèmes techniques, faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles, telle et telle guerre, tirant profit du centre de terre mère au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Se prépare le terreau hors pair du plus grand génocide, la famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour puisse laisser un tas de vaccins empoisonnés. Nel nostro percorso politico abbiamo pensato ad un certo punto di non poter più fare a meno di considerare all'interno del nostro pensiero e della nostra pratica femminista il pensiero antispecista che si inserisce all'interno della nostra critica al sistema culturale dominante. La violenza perpetrata nei confronti degli animali è così simile a quella perpetrata nei confronti delle donne, dei bambini, dei neri, dei diversi da sé appunto. E conosciamo bene la connessione strumentale fatta per secoli fra donne e animali. Sappiamo bene quali possono essere le critiche legate a un discorso che metta accanto la violenza nei confronti delle donne a quella nei confronti degli animali, ma ciò nonostante riteniamo di poter superare certe barriere e resistenze e andare oltre, diciamo piuttosto che abbiamo deciso di farlo. E quindi non è possibile più per noi criticare la violenza del sistema patriarcale che ancora domina le nostre società facendo finta di non vedere la connessione tra quello che abbiamo nel piatto e il massacro dei tanti animali che ogni giorno vengono barbaramente uccisi, sgozzati, tenuti in catene, in condizioni disumane, stipati in gabbie luride e malsane, in cui si calpestano a vicenda, in cui muoiono fra incredibili sofferenze, animali uccisi nelle maniere più terribili e crudeli, su cui vengono fatti esperimenti cruenti e per di più inutili, mucche ingravidate forzatamente per essere spremute, per farci bere latte o mangiare la mozzarella o, permettetemi, schifezze simili. Non parleremo di quanto la carne o i derivati animali facciano male o di quanto siano insostenibili per il nostro sistema gli allevamenti intensivi, perché per questo basta insomma documentarsi un pochino. Pensate, anche l'ONU se n'è accorta in quanto ritiene, in base a uno studio che è stato pubblicato il 2 giugno, che, cito testualmente, la dieta vegana salverà il mondo, che gli allevamenti sono la causa delle deforestazioni e delle emissioni di gas nocive per l'ambiente, che solo l'eliminazione dell'utilizzo di carne e di derivati animali potrà salvarci dal disastro ambientale. Quello che però è più difficile da fare è riuscire a vedere chi abbiamo nel piatto, come recita il titolo della trasmissione di stasera. È difficile quindi riuscire a fare il nesso fra l'hamburger, il brie, la bistecca e procedendo a ritroso nel tempo riuscire a vedere l'animale da cui questi pezzi di carne o fluidi provengono. È molto difficile da accettare, intollerabile, ma il collegamento si può fare, si può decidere di interrompere la catena della dipendenza dal cibo che mangiamo. Marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et de faire en sorte que ça que nous frôlons. La rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage, car le mal tape sans cesse trop et que ne sont plus mis au bout du jour dans de grands apports ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états, riche de vérité, pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils nous feront garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent, faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition. La rage, moi la rage, ou l'essence de la révolution. Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. On restera debout quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus se taire ni s'asseoir, dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste. Pour toi qui cherches la vérité sur ce monde, la résistance de demain, à la veille d'une révolution. Arrache du peuple, arrache du peuple. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle crie la populace. Et la rage est énorme. Ma parliamo ora di una grande esponente del femminismo antispecista e vegano. Lei si chiama Carol Adams. Scrittrice di numerosi testi, ha scritto il famoso The Sexual Politics of Meat, a Feminist Vegetarian Critical Theory, cioè la politica sessuale della carne, una teoria critica del femminismo vegetariano, oppure The Pornography of Meat, la pornografia della carne, oppure Neither Man nor Beast, Feminism and the Defense of Animal, né uomini né uomo né bestia, femminismo e la difesa degli animali, e ancora Women Battering, sulla violenza contro le donne. Ora leggiamo alcune riflessioni tratte dal secondo capitolo del libro di Carol Adams, La politica sessuale della carne, che è intitolato Lo stupro degli animali, la macellazione delle donne, pubblicato nel 1991 e che è considerato il manifesto del femminismo vegan, di cui non esiste però una versione in italiano. Solo questo secondo capitolo è stato tradotto e da questo secondo capitolo noi prendiamo le nostre riflessioni. La traduttrice si chiama Eva Melodia, ha tradotto dall'inglese e questo articolo è stato pubblicato sul fascicolo numero 1 della rivista Liberazioni, rivista di critica antispecista. Scrive Carol Adams che esiste un nesso tra la violenza contro le donne e lo smembramento, la macellazione della natura e del corpo nella nostra cultura occidentale. Questa macellazione riguarda appunto la macellazione degli animali, che è legata direttamente alla violenza contro le donne e che viene messa in atto tramite quello che Carol Adams definisce le molteplici sovrapposizioni di rappresentazioni culturali. Cioè le rappresentazioni culturali, nel nostro caso quelle relative alle donne e agli animali, che sono entrambi appunto gruppi oppressi, si richiamano a vicenda nell'immagine culturale attraverso la quale il referente assente, ossia il concetto invisibile a cui rimanda una determinata immagine. Per esempio, facciamo alcuni esempi. Coloro che mangiano la carne sanno benissimo che la carne è appartenuta prima a un animale vero, in carne e ossa, ma l'assenza di quell'animale vivo e la presenza della carne a cui quell'animale è ridotto permettono alle persone che mangiano carne di dimenticarsi dell'animale in quanto entità autonoma. In questo caso l'animale vivo è il referente assente che ci fa dimenticare che stiamo mangiando quello che un tempo è stato un animale reale. attraverso questa struttura del referente assente, cioè dare un'immagine e rinviare ad un'altra l'oggetto insomma non viene nominato, non viene rappresentato, attraverso quindi questa struttura del referente assente, la realtà materiale della violenza, in questo caso la macellazione e l'uccisione di esseri senzienti, appunto gli animali, viene ridotta a una metafora, cioè a carne commestibile, in cui la stessa violenza viene cancellata per poter essere ridotta e controllata. Anche le donne sono spesso un referente assente nella descrizione della violenza culturale. Si parla ad esempio di stupro della natura, per intendere la depredazione delle risorse della terra e la macellazione degli animali. In questo caso quindi si evoca l'esperienza dello stupro subita dalle donne, ma non le donne stesse. E allo stesso modo la violenza sessuale subita dalle donne viene rappresentata spesso con il termine di macellazione delle donne e rimanda in questo caso alla macellazione degli animali nei mattatoi. In questo caso nel termine macellazione delle donne il referente assente è l'animale. Quindi l'assenza del referente, in questo caso appunto l'animale macellato, fa sì che noi stessi non ci accorgiamo del fatto che le donne subiscono la medesima oppressione degli animali. E questo non ci permette di prendere realmente la distanza, dice Carol Adams, dalla violenza patriarcale, ma al contrario permette a questa violenza di essere perpetrata attraverso l'adesione che le stesse donne continuano a dare nel momento in cui impiegano queste metafore animali, come appunto la macellazione delle donne, per spiegare la violenza che esse subiscono, la violenza perpetrata ai loro danni. In questo modo però le donne partecipano alle strutture rappresentative che cercano in qualche modo di smascherare. My heart on my vacation needs a Il meccanismo della violenza patriarcale viene messo in atto attraverso il ciclo di oggettivazione, macellazione, consumo che riguarda i gruppi oppressi. L'oggettivazione permette all'oppressore di trattare un altro essere alla stregua di un oggetto che è privo di volontà individuale. Così come lo stupratore che nega la libertà alla donna che violenta, la macellazione animale trasforma gli animali da vivi a oggetti morti. La macellazione è invece quel processo tramite cui un essere viene smembrato in più parti. È quello che succede all'animale durante la macellazione e quello che accade alle donne nella rappresentazione culturale occidentale, che le rappresenta come pezzi di corpo, seni, cosce, natiche, eccetera. La macellazione che riduce gli animali a oggetto di consumo avviene solitamente lontano dai nostri occhi. I mattatoi, istituzioni esclusive degli esseri umani, sono isolati dal resto della comunità, poiché se le persone vedessero cosa vi succede dentro, smetterebbero immediatamente di mangiare carne. A questo proposito, Carol Adams sostiene che non vogliamo sapere nulla della frammentazione, poiché essa è il processo attraverso cui il referente assente diventa tale. Infine, il consumo annienta gli esseri viventi, riducendoli soltanto a ciò che rappresentano. Per quanto riguarda gli animali, ad esempio, i loro corpi vengono cambiati o rinominati, così da ridurre al minimo i riferimenti inquietanti, trasformandoli in carne. Così le mucche diventano bistecche e hamburger, e i maiali, salami e salsicce. Anche le donne stesse diventano, negli atti di violenza fisica e culturale, perpetrati nei loro confronti, dei pezzi di carne. Nello stupro, ad esempio, è come se lo stupratore le divorasse, riducendole a qualcosa di simbolicamente commestibile. Ma perché, pur non essendo realmente mangiate, molte donne che hanno subito la tortura dello stupro si sono sentite mangiate, consumate, addirittura pari a un pezzo di carne? Questo succede perché la violenza perpetrata contro le donne e contro gli animali è una violenza strumentale, cioè perpetrata attraverso gli strumenti di tortura. Per smembrare, uccidere e piegare gli esseri viventi alla nostra volontà abbiamo bisogno di strumenti che causano la dissoluzione di creature innocue. Nei grandi mattatoi, ad esempio, per macellare gli animali si usano più di 35 tipi di coltelli. Allo stesso modo gli uomini, per intimidire ed esercitare violenza fisica e psicologica sulle donne, si servono di armi come anche del pene usato come arma. La metafora della macellazione animale si sovrappone alla categoria di donne violentate e assassinate. Nelle cronache dell'epoca, Jack lo Squartatore mutilava le donne che assassinava, così come succede agli animali nei macelli, e spesso l'obiettivo di questa macellazione delle donne, come nel caso dei femminicidi di Juarez in Messico, è il traffico di organi, pezzi di corpi venduti, proprio come accade con il mercato del cibo animale. Le immagini di macellazione rinviano all'uccisione stessa degli animali e permettono di diffondere la cultura patriarcale. Scrive la femminista Andrea Dworkin in Pornography che la cultura patriarcale considera l'esperienza come frammentata, e questa frammentazione viene pienamente rappresentata nelle immagini femminili in cui il corpo delle donne viene sezionato e macellato. La macellazione, in particolare nella cultura occidentale, celebra l'immagine della donna violentata. Questa macellazione viene veicolata dal linguaggio del carnivorismo. Scrive la femminista afroamericana Bell Hooks nel libro High Entire Woman, Black Women and Feminism. La verità è che nell'America sessista, dove le donne sono estensioni oggettive dell'ego maschile, le donne nere sono state etichettate come hamburger e le donne bianche come costolette di primo scelto. Da queste riflessioni possiamo dedurre che l'intersezione, la connessione fra oppressione femminile e oppressione animale deve essere chiaramente evidenziata se vogliamo evitare di essere complici della cultura della violenza. Non dobbiamo dunque ricorrere alla metafora dell'oppressione animale per rappresentare le donne, per rappresentare la violenza sulle donne, e non dobbiamo più negare l'analogia tra oppressione delle donne e oppressione animale. Allo stesso modo, sostiene Carol Adams, gli animalisti non dovrebbero più usare la metafora dello stupro femminile quando parlano di violenza sugli animali, senza fondare questa affermazione su un solido riconoscimento del contesto sociale in cui effettivamente avviene lo stupro delle donne. Possiamo allora concludere queste nostre riflessioni con le ultime parole con cui Carol Adams chiude il secondo libro, Lo stupro degli animali, la macellazione delle donne, e dice: nell'incorporare il desiderio degli animali nella nostra visione, non potremmo non imbatterci in altre questioni: il rapporto fra imperialismo e sostituzione di una dieta carnivora bianca alle tradizioni alimentari dei popoli di colore, le implicazioni ecologiche del consumo istituzionalizzato di animali da allevamento intensivo, il significato della nostra dipendenza dalle proteine femminili derivate da latte e uova, il problema del razzismo e del classismo che sorge quando consideriamo il ruolo dei paesi industrializzati nel decidere quali siano le proteine di qualità migliore, punto. Tutto questo fa parte della politica sessuale della carne. Adesso un altro stacco musicale e poi siamo ai saluti. And my clothes are on backwards. It's an unpredictable world. And now I wear my stack hat to bed. Yeah, to protect my head. Whoa, oh, oh, oh. Cause sleeping is dangerous. Never know what's coming next. Last night I was flying, then I smoked a cigarette. And I won't feel safe until I know what's coming next. I've got my light, my whistle for attracting attention. I wear my stack hat to bed. Yeah, to protect my head. Whoa, I wear my stack hat to bed. Yeah, to protect my head. Whoa, oh, hum, dum, da, da. We'll be right back. tried to fill it up with flowers. She felt I didn't understand the concept of personal power, and I'll never really get exactly what she meant. I wear my stack hat to bed, yeah, to protect my head. Whoa, I wear my stack hat to bed, yeah, to protect my head. Whoa, oh, and it's hard to know so much but never really know. Yeah, it's hard to know so much but never really know. Yeah, we never really know. Oh, we never really know. Oh, we never really know. Yeah, we never really know. I got a crick in my neck from looking over my shoulder, and when I tripped over love, it nearly bowled me over. And she doesn't seem to care about my nightly headgear, and somehow when she's near, I don't need to wear my stack hat to bed. Yeah, to protect my head. Whoa, I wear my stack hat to bed. Yeah, to protect my head. Whoa, oh, oh, da da da. Adesso veniamo alla nostra rubrica musicale. Le prime due canzoni che abbiamo ascoltato sono due canzoni di Kenny Arcana, che è una cantante francese. Si intitolano Vous pour vérité, e il secondo brano musicale si intitola La Rage, la rabbia. Ricordiamo che Kenny Arcana milita nel movimento di disobbedienza civile No Global o altromondista. E il titolo dell'album in cui sono scusate, questo movimento si chiama La Rage du Peuple e ha scritto diversi album. Nel 2008 ha pubblicato un album che si chiama Désobéissance, e nel 2011 ha pubblicato lo street album L'Esquisse. Abbiamo anche ascoltato altre canzoni, Wild Flag, di Wild Flag, Black Tiles, e quest'ultima canzone che abbiamo ascoltato era del trio, del Rosie Burgess Trio, Stack Hat. Ok, siamo ai saluti. Vi ricordiamo che se volete condividere le vostre riflessioni su quanto detto stasera e su qualsiasi altra cosa, potete scriverci all'indirizzo connettive@gmail.com. Nelle prossime trasmissioni continueremo a trattare i temi del femminismo antispecista, approfondiremo anche i discorsi accennati questa sera. Vi ricordiamo inoltre che il 30 giugno avrà luogo la manifestazione per la chiusura di Grenell a Montichiari, a cui seguirà un presidio stabile. Per chi non lo sapesse, Grenell è un lager in cui vengono tenuti prigionieri dei poveri Beagle, che poi, come se non bastasse, verranno venduti per essere torturati in laboratori di vivisezione. Ora vi salutiamo e vi lasciamo, come di consueto, alla canzone di Patti Smith, Summer Cannibals, quanto mai appropriata. Ciao! Beneath my feet, descending into air. The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me, beckoned.